2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 20 marzo 2010, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Vi ricordo come sempre il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Potete contattarci in questo modo, oggi potete farlo anche via SMS al 349-238-6666. Vi ricordo che il file MP3 della nostra trasmissione sarà disponibile attraverso il servizio podcast entro un'ora e mezza dalla fine della trasmissione, quindi potrete scaricarlo con il vostro computer a partire al massimo dalle 18.30 del sabato. Alcune notizie prima del nostro approfondimento, però vi presento uno dei nostri ospiti, Massimo Morandi, direttore di Cellulare Magazine. Massimo, bentornato a 2024, ciao. Ciao Enrico, ben ritrovato. Oggi parliamo di chiavette internet, così si chiamano. Sono strumenti che servono a che cosa? Servono per navigare in internet anche quando non si dispone di una presa fissa per la rete internet. Bene, di questo parleremo più tardi con Massimo Morandi, ma anche un altro ospite. Adesso, come vi dicevo, alcune notizie della settimana. 7 giorni fa il Financial Times aveva anticipato la imminente chiusura delle attività cinesi di Google, una decisione che secondo indiscrezioni potrebbe essere annunciata lunedì. Google, sempre secondo queste notizie, chiuderebbe i battenti in Cina il 10 di aprile. Torneremo sull'argomento, anche se abbiamo parlato spesso di questa battaglia tra la Cina e Google, ma in pratica tra la Cina e gli Stati Uniti. Si sposta intanto in tribunale l'asta per la vendita di sex.com, uno dei siti internet più ambiti in rete. I creditori del proprietario del sito hanno depositato contro la società una richiesta di bancarotta. C'era molta attesa per questa asta che per il momento non vedremo. Sapete che dall'autunno 2012 le lampadine ad incandescenza saranno fuori legge nell'Unione Europea. Ci saranno altri paesi nel mondo dove sarà ancora possibile usarle, ma i tempi cambiano e nuove tecnologie anche per l'illuminazione si stanno affermando, ed è per questo che la Toshiba ha ufficialmente terminato la produzione di lampadine a incandescenza per concentrarsi nella produzione di lampade a LED che sono più efficienti dal punto di vista energetico e anche in grado di durare molto di più, oltre 10 anni. Toshiba è stata la prima azienda giapponese a costruire lampadine ad incandescenza nel 1890. Adesso cambiamo argomento. Tra qualche settimana o forse tra qualche giorno, un, ad esempio, videoregistratore con hard disk da 250 GB potrebbe costare il 10% di più in Italia. E questo per via dell'aumento del cosiddetto equo compenso SIAE per copia privata, un compenso nato per ricompensare gli autori per le copie private che un cittadino può fare dopo aver acquistato regolarmente un'opera protetta dal diritto d'autore. Alla fine dell'anno questo compenso è stato esteso ad una miriade di apparecchi elettronici come ad esempio i telefonini o i lettori MP3, e anche questi aumenteranno di prezzo. Una decisione che è stata presa dal Ministero dei Beni Culturali che ha provocato molte critiche soprattutto da parte dell'industria dell'elettronica di consumo. L'ultimo intervento è dell'ANDEC, un'associazione che rappresenta in Italia 60 aziende tra le più conosciute sul mercato dell'elettronica di consumo. Ne abbiamo parlato con Maurizio Iorio, che è il presidente dell'ANDEC. Noi riteniamo che questo compenso dovesse essere determinato come stabilisce la legge, sulla base di principi di equità, tenendo conto dell'esistenza o meno di delle misure tecnologiche volte a impedire la copia o a limitarla, e invece si sono seguiti requisiti meramente economici, quali la necessità probabilmente di SIAE di fare cassa e di compensare la diminuzione delle vendite e quindi anche del suo flusso di compenso con l'aumento delle categorie di prodotti che sono soggetti di compenso e il compenso stesso. Qualche dato, noi abbiamo dei dati che ci ha fornito GFK e che sono di carattere scientifico. Voi pensate che passiamo da un gettito di compenso per copie private di 42.451.900, che sono quelli del 2009, a ben, pensate, 100.620.219, con un delta più di 58.168.319. Abbiamo delle categorie di prodotti in cui il compenso pagato nel 2009 è uguale a zero e passa, per esempio, per quanto riguarda la memoria dei telefoni cellulari e degli smartphone, da 0 a 22.241.700, oppure l'MP4 delle flash memory degli hard disk passa da 0 nel 2009 a, con questi nuovi tipi di compensi, 15.481.754. Per quanto riguarda gli hard disk esterni, passa da 0 a 9.006.773, e potrei andare avanti per un bel po'. Certo, questo naturalmente è una stima fatta sull'intero sistema, poi per ogni consumatore o comunque per ogni prodotto va fatta una stima che, l'abbiamo detto altre volte, va da alcuni euro a addirittura ad alcune decine di euro, quindi insomma esattamente. Peso. Voi avete fatto anche una stima. Vogliamo vedere anche questo aspetto, per esempio. Guardi, due prodotti a caso, e che particolarmente significativi, e che si riferiscono proprio al costo per ogni prodotto. Ipotizziamo un DVD video recorder con hard disk di 251 giga. Il compenso in Austria e in Finlandia è di copie private di 18 euro, nel Belgio di 1,35 euro. In Germania di 18,42 euro, in Spagna di 6,61 euro, Olanda e Regno Unito 0, in Francia, che è un'eccezione, 35 euro, e in Italia 28,98 euro, pensate, rispetto alle 18 dell'Austria e Francia, dell'1,35 del Belgio, delle 18,42 della Germania e delle 6,61 della Spagna. Prendiamo un altro prodotto, HD con MP3 player 60 giga. Nel caso dell'Austria, Finlandia e Francia sono 15 euro di compenso per copia privata, 0 in Belgio, Spagna, Olanda, Regno Unito, 2,56 euro in Germania, e in Italia 12,88 euro. Quindi parliamo di percentuali che vanno dal 10 al forse anche 20%, perché ormai questi prodotti costano molto poco. Certamente. Senta, voi avete fatto una stima, o comunque pensate che tutto ciò possa creare dei problemi alle vendite? Detto banalmente, che le vendite di questi prodotti in Italia calino perché aumenteranno i prezzi? Sì, io penso di sì. Voi capite che in definitiva poi vanno rifatti i listini nuovi, riflettono questi compensi, e questo potrebbe disincentivare le vendite, soprattutto in questo momento che è già molto difficile, perlomeno in molti prodotti. Questo è qualcosa che va considerato, quindi con danni notevolissimi per i consumatori anzitutto, e per quanto riguarda il sottoscritto, che rappresenta una categoria di importatori e produttori, ovviamente per tutta la filiera, sia per quanto riguarda il sell out, quindi la distribuzione, sia per quanto riguarda il sell in, quindi i produttori e gli importatori. Non c'è dubbio. Senta, le faccio una domanda sui margini. Noi, quando parliamo dell'elettronica, del mercato dell'elettronica di consumo, facciamo riferimento a prodotti che oramai hanno margini, quindi ricavi per i rivenditori, molto bassi, perché c'è molta concorrenza, i prezzi nell'elettronica di consumo tendono sempre verso il basso. C'è quindi la quasi certezza che questa, che tecnicamente non è una tassa ma viene percepita come tale, ricada completamente sul costo finale, quindi la paghi il consumatore? Sì, lei ha toccato un punto che è molto importante, la ringrazio di questa domanda. Ciò che ANDEC, nel corso dei negoziati che ci sono stati con la SIAE e delle consultazioni ministeriali per la determinazione di questioni di compensi, ha sempre sostenuto, e non solo ANDEC, anche altre associazioni per carità, è che il compenso di copia privata dovrebbe essere calcolato in misura percentuale sul prezzo finale. In modo che aumentano le vendite, aumenta anche il gettito di questo compenso. Invece non è così. Come avete visto, viene stabilito in grossa misura fissa, e questo ovviamente determina da una parte la diminuzione delle vendite e dall'altra l'aumento dei compensi, quindi si apre una spirale che è perversa per il mercato e anche per le tasche del consumatore. Senta, questi listini sono già stati adeguati oppure no? E veniamo al secondo punto, sai, grave, ovvero sia, c'è la massima incertezza tra gli operatori, pensi un po' anche che situazione ci troviamo, circa il quando sia entrato in vigore questi compensi e addirittura questi nuovi compensi, addirittura se siano entrati in vigore. Perché? Perché non è stato pubblicato mai sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale del Ministero dei Beni Culturali del 30 dicembre del 2009 che fissa questi nuovi compensi. Perché non è stato pubblicato? Non è stato pubblicato perché c'è una legge del giugno dello scorso scorso anno, la cosiddetta legge Brunet, che stabilisce che nel caso di provvedimenti e atti amministrativi non occorre la pubblicazione sul Gazzetto Ufficiale, ma è sufficiente la pubblicazione sul sito internet del Ministero o dell'ente che li emana. La pubblicazione sul Gazzetto Ufficiale vale semplicemente come avviso, come informazione che è stato pubblicato sul sito, ma la decorrenza da quando è stato pubblicato sul sito. Ora, questa normativa, questa legge Brunet si applica dal 1 gennaio del 2010, il decreto ministeriale del 30 dicembre del 2009, quindi credo che sia forse uno dei primissimi provvedimenti che ha avuto a che fare con questa nuova normativa, la quale non si applica alla legge Brunetta nel caso di leggi ovviamente e di decreti ministeriali che abbiano un carattere generale astratto, ovvero sia siano dei regolamenti. Allora, la situazione in questo momento è la seguente: il Ministero dei Beni Culturali sostiene che questo non è un regolamento ma è un semplice decreto ministeriale che non ha carattere generale astratto, non fa altro che stabilire degli importi nell'ambito di una legge quadro e quindi non necessita di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. È efficace dal momento in cui è stato pubblicato sul sito del Ministero e quindi è perfettamente valido. Nel caso invece dei produttori, degli importatori, delle varie categorie, abbiamo dei pareri, dei luminari in proposito, si tratterebbe invece in realtà di, per diversi motivi che vi risparmio, non è questo il momento, di un regolamento, avrebbe un carattere generale estratto, abbiamo già dei ricorsi al TAR da parte di diversi multinazionali ed anche un ricorso alla Corte di Giustizia da parte di un'associazione. Si vuol far valere in questi casi che avrebbe dovuto essere questo decreto ministeriale pubblicato sul Gazzetto Ufficiale, quindi non sarebbe entrato in vigore che 15 giorni, il 15° giorno dalla pubblicazione. Tutto questo sta creando ovviamente una situazione di intollerabile incertezza. Lo stesso Ministero del Beni Culturali è costretto all'inizio di marzo finalmente a emettere un parere chiarificatore che non ha chiarificato in realtà un bel niente. In questo momento quindi, oltre ad esserci tutto quello che abbiamo esaminato, direi finora, c'è anche questo aspetto, ovvero sia una incertezza assoluta da parte degli operatori su, uno, se questo provvedimento sia valido, perché non è stato mai pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, due, nell'ipotesi in cui lo si considerasse valido, da quando è efficace, se è efficace da quando è stato pubblicato sul sito del Ministero dei Beni Culturali o se è efficace da quando ne è stata data la pubblicazione, la notizia della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in questo caso i 15 giorni scaderebbero il 21 marzo, oppure se addirittura non essendo stato pubblicato integralmente sulla Gazzetta Ufficiale, ma essendo stata pubblicata solo la notizia della pubblicazione sul sito del Ministero, tout court non è per nulla efficace. Chiarissimo. Poi quindi ditemi come fanno gli operatori, certo, in questo momento a rivedere i prezzi, gli stili, non è possibile. Abbiamo chiesto come Andec la possibilità di un intervento politico del Ministero, cioè mettersi tutti attorno a un tavolo per discutere queste cose e se proprio deve entrare in vigore, poi vedremo di discutere ancora nel sedi opportuni il quanto, metterci d'accordo in modo da poterci capire qualche cosa. Chiarissimo, quindi di fatto diciamo i listini ancora non sono stati aggiornati e questi aumenti del 10, 20, 30% ci saranno. Guardi, per quello chissà che io quando, ne so, non sono stati ancora aggiornati, se non in alcuni casi. Ovviamente ogni azienda fa quello, certo, che vuole, certo. Andec non può coordinare l'aggiornamento dei listini perché sarebbe evitato la normativa antitrust. Chiaro. Però so che i nostri associati non l'hanno ancora fatto. Oggi in regia c'è Paolo Corleoni, che ringraziamo. Abbiamo parlato poco fa dell'equo compenso SIA, un argomento che si inserisce nel più vasto e complesso, soprattutto complesso, tema del diritto d'autore nell'era di internet, sul quale prima o poi bisognerà mettere mano in modo complessivo. Il ministro Bondi, che ha firmato il decreto che rivede l'equo compenso SIA, ha promesso la convocazione di un tavolo. Noi lo abbiamo invitato, non a questo tavolo che deve essere convocato, ma ad intervenire per parlare dell'equo compenso SIAE, ma finora il ministro preferisce non parlare di questa materia. Riproveremo dopo le elezioni. Parliamo di internet e della diffusione di internet. C'è delusione tra gli operatori dopo l'approvazione del decreto incentivi che per la diffusione di internet prevede contributi per i giovani. Al momento però non si conosce né l'ammontare dell'incentivo e nemmeno chi è considerato giovane. Lo vedremo nei prossimi giorni, ma probabilmente ci sarà uno sconto per l'attivazione di un collegamento ad internet, il che, dicono molti esperti, ma noi sottoscriviamo, è ben poca cosa, considerando che la linea ADSL è un costo elevato non tanto per l'attivazione ma per quanto riguarda per il canone annuale che si aggira almeno a 350 euro all'anno. Ci sarebbe un provvedimento a costo zero per lo Stato che farebbe scendere invece l'abbonamento annuale a circa 240 euro, quindi meno 111 euro rispetto al prezzo massimo di oggi. Ed è l'abolizione del canone dovuto a Telecom Italia con l'avallo dell'autorità per le comunicazioni in caso di ADSL solo dati, le cosiddette ADSL nude, quelle senza telefono che con questo canone sono di fatto allineate a quelle che hanno il telefono, quindi rende questo canone di fatto inutile la richiesta di queste ADSL. Cioè, delusione, dicevo, tra gli operatori anche per la mancanza di una decisione attesa e più volte annunciata nei mesi scorsi sui famosi fondi destinati alla banda larga. Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici parla di delusione ma anche di aspettative non ancora del tutto esaurite. Siamo consapevoli della scarsità di risorse disponibili, scrive il presidente Stefano Pileri, ma francamente ci aspettavamo una misura che contenesse un primo nucleo di exit strategy dalla crisi, invece ci si è indirizzati ancora una volta verso provvedimenti tampone o comunque dal respiro corto. Questo dunque il parere di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici. Noi ci concentriamo su internet e soprattutto sull'accesso. La soluzione migliore, lo diciamo spesso, sarebbe quella di un collegamento via cavo, magari a costi più bassi rispetto agli attuali, come dicevamo, ma dove la rete non è accessibile via cavo oppure si hanno forti esigenze di mobilità, esiste un'alternativa che è offerta dalla telefonia mobile. Ve l'ho già presentato, Massimo Morandi, direttore di Cellulare Magazine. Parliamo quindi di chiavette internet. Questa è una buona opportunità per molti consumatori. Di che cosa stiamo parlando e soprattutto, Massimo, perché stanno avendo così tanto successo negli ultimi mesi? Beh, stanno avendo tantissimo successo perché comunque la mobilità nel collegamento è uno dei requisiti sempre più richiesti sia a livello privato sia a livello professionale che dalle aziende. Le chiavette sono dei piccoli modem USB della grandezza delle chiavette USB di storage, quindi che siamo abituati a usare già da parecchi anni. All'interno contengono un modem, una SIM dati, si alimentano direttamente dalla porta USB del computer o del notebook o del netbook all'interno del quale vengono inserite, e la cosa che le ha rese di grande successo, forse le cose che le hanno rese di grande successo, sono che innanzitutto, ed è già un buon punto di partenza, sono economiche, costano poco, sono semplici da usare, soprattutto facili da installare, anzi sono, potremmo definirle autoinstallanti, basta inserirle all'interno della presa USB, il software parte da solo, si autoinstalla e tutto è pronto già per navigare, basta poi lanciare il browser. Mediamente sono tutti prodotti, anche se a costo piuttosto basso, ma ben funzionanti, si guastano, difficile che si guastino, sono piccole, portatili, stanno in una tasca, è sicuramente più complicato portare in giro un computer portatile che il suo modem in questo caso. E poi perché non richiedono particolari specifiche o grandi potenze di calcolo, quindi possono essere usate su tutti i notebook sicuramente e sulla gran parte dei netbook in commercio. Quindi questi sono in estrema sintesi i motivi per cui queste chiavette hanno successo. Saluto Mauro Placcher, che è direttore del marketing strategico e uno dei fondatori di Onda Communication. Benvenuto a 2024. Buongiorno. Voi da... Grazie. Parecchi anni, 6-7 anni, vi occupate di questi prodotti. E io e Massimo Morandi abbiamo deciso di invitarvi anche perché, una cosa che dico spesso, noi abbiamo un mercato della telefonia mobile così vasto, così ricco, tra l'altro ancora oggi, perché pensiamo alla crescita che c'è stata nei paesi asiatici negli ultimi anni, nonostante questa crescita, noi ancora in Italia siamo un mercato molto ricco. E una cosa che io ho notato già da un po' di tempo è che non siamo come sistema paese riusciti a costruire un'industria sopra questo mercato, perché i telefonini li compriamo dall'estero, gli operatori di telefonia mobile sono quasi tutti oramai controllati da investitori esteri, anche Telecom Italia ha una partecipazione spagnola. Voi invece siete un'azienda italiana che fa buona parte di questi prodotti in Italia. Ci dica subito, Placcher, innanzitutto che cosa fate e soprattutto dove lo fate? Bene, noi sì, siamo assolutamente un'azienda che è 100% italiana. Nasciamo, come diceva lei, nel 2003 e subito dopo, nel 2004, riusciamo a intuire, e questa è stata la nostra grande fortuna, che il mercato del mobile internet sarebbe stato un mercato che da lì a poco stava per esplodere. L'accesso a internet e mobilità era un prodotto molto business che, con l'introduzione soprattutto delle chiavette USB, noi siamo stati tra i primi a proporre questo tipo di tecnologia, ha fatto sì che la diffusione è veramente esplosa. Parliamo di 4 milioni di chiavette vendute nel 2009 e si stima che si arriverà ai 5 milioni nel 2010. In Italia? In Italia. È un buon numero, quindi. In Italia. Onda in questo momento ha il 30% del mercato attraverso i principali operatori di rete, TIM, Wind e Tre. Ma il fatto, come cerchiamo di affrontare questo mercato? Noi abbiamo sempre puntato chiaramente sulla tecnologia, con una crescita continua di competenza all'interno dell'azienda, ma soprattutto puntando anche alla ricerca dell'innovazione e a un design particolare, nel senso che siamo un'azienda italiana, gli italiani sono famosi nel mondo proprio per l'innovazione e il design, e quindi abbiamo unito queste due cose e abbiamo creato questi prodotti che sono un concentrato sì di tecnologia, ma, come ha detto chi mi ha preceduto, estremamente semplici da usare. Credo che questo mix sia anche il motivo del grande successo, unito alla ricerca di libertà. Sì, poi le farò alcune domande sui prodotti. Volevo un parere da Massimo Morandi, che segue tutti i giorni, anche di sabato e di domenica, questo mercato. L'Italia, mi confermi che ancora oggi è un paese guida? Sicuramente per numeri non possiamo competere con alcuni paesi asiatici o gli Stati Uniti, però evidentemente in questo mercato i consumatori italiani sono esigenti e molti operatori scelgono di lanciare i prodotti prima qua che in altri mercati. Beh, è verissimo, non possiamo concorrere se parliamo di numeri generali. Se parliamo di numeri percentuali rispetto a abitanti, sim attivate, prodotti venduti, invece viene fuori qualcosa di molto interessante. È verissimo, il nostro mercato è completamente diverso anche dagli altri mercati europei. Te lo dicono tutti alle grandi fiere internazionali, gli stranieri. Il nostro mercato è particolare, è molto più facile sbagliare il prodotto, si guarda moltissimo al design, ma è anche vero che dopo il design ci deve essere qualcosa che funziona molto bene, perché sicuramente noi ci affezioniamo molto ai marchi che funzionano, ma siamo anche molto più rapidi ad abbandonarli se le cose non vanno bene. Placer, in questo caso per le chiavette USB per collegarsi ad internet il marchio conta meno. Ma questo era vero forse più in passato, ed è questo che ci ha dato la forza. Adesso posso dire che, insomma, Onda è un marchio per quanto riguarda mobile internet, e quindi chi compra un nostro prodotto ha anche la garanzia che dietro c'è stata una ricerca di innovazione, una tecnologia che gli dia garanzia di un buon risultato. Senta, ci dice a che punto siamo arrivati con la tecnologia, parlando di tecnologia che i consumatori possono utilizzare, perché gli operatori di telefonia mobile a volte la sparano un po' grossa, perché il marketing vuol far vedere di essere all'avanguardia tecnologica, magari anche poco prima che lo sia realmente. Voi che fornite questa tecnologia agli operatori, e mi pare di capire, poi anche di questo parliamo, state cominciando a vendere anche direttamente sul mercato, che cosa possiamo utilizzare effettivamente, concretamente oggi? Oggi, diciamo, lo stato dell'arte della comunicazione in mobilità ha raggiunto un traguardo che fino a meno di un anno fa sembrava quasi impossibile, che sono quello dei 14 megabit in download e dei 5.76 megabit in upload, che sono velocità veramente importanti, senza dimenticare che comunque oramai, diciamo, lo standard base da cui partono tutte le chiavette è la tecnologia 7.2, quindi già una velocità molto elevata. Per quanto riguarda l'imminente futuro, diciamo che la tecnologia è già pronta per i 21 megabit in download, e successivamente ci saranno dei passi veramente pazzeschi se guardiamo appunto alla velocità che avevamo nel 2004, che parliamo di 50 kilobit col GPRS, quindi parliamo di salti a 42 megabit, a 84 megabit, fino ad arrivare all'LTE nel giro di qualche anno, che proporrà i 100 megabit. Chiaramente ci sono dei tempi di implementazione nella rete, implementazione dei servizi, quindi diciamo mediamente una tecnologia si stima una durata, se guardiamo anche riguardo il GSM, di quasi 20 anni, però c'è sempre una sovrapposizione tra la tecnologia precedente e quella che segue. E quindi sicuramente l'attuale tecnologia, che è l'HSPA, cioè l'accesso ad alta velocità pacchettizzata, cioè a pacchetti, durerà ancora per almeno un decennio, per aprire la strada poi all'LTE, che comincerà a già fine di quest'anno. Ci saranno delle prime reti, però diciamo in maniera commerciale non prima del 2012-2013. Sì, alcune reti LTE, quindi LTE, sono state lanciate commercialmente in Giappone, negli Stati Uniti e in Europa solo in Svezia. Per l'Italia si parla di una tecnologia che arriverà tra qualche anno, quindi sicuramente, anche perché probabilmente dovranno essere messe a gara alcune frequenze. Stiamo parlando dell'accesso ad internet grazie alle tecnologie di rete mobile. Aggiungo, prima dicevo che sarebbe auspicabile poter accedere ad internet tramite cavo a prezzi bassi in tutta Italia. Purtroppo questo non è possibile. Una buona alternativa, soprattutto quando c'è necessità di mobilità, è offerta dai servizi 3G, quindi dalla telefonia mobile, ma esistono altre possibilità via radio, di cui abbiamo parlato 2024, ma mi piace ricordarle, che sono l'Hyperlan, ma anche in questo caso stiamo parlando di una postazione fissa, un collegamento che viene fatto via radio tra un'antenna e casa nostra. Hyperlan è una tecnologia abbastanza diffusa un po' in tutta Italia, e WiMAX, che si sta diffondendo molto lentamente, ma anche di questo abbiamo già parlato. Massimo Morandi, vorrei, visto che voi provate anche molti prodotti, concretamente poi sul territorio, queste velocità di punta che la tecnologia ci permette di raggiungere con queste chiavette USB, sono raggiungibili o, insomma, nel concreto di tutti i giorni mica tanto? Ma infatti noi distinguiamo sempre tra le velocità nominali, che poi sono quelle anche pubblicizzate delle chiavette, dell'hardware, e le velocità reali, pratiche, che poi si raggiungono sul terreno. Queste seconde ovviamente dipendono da diversi fattori, dal luogo in cui ci si trova, dal numero delle persone che sono collegate in quel momento con la cella, dalla copertura del gestore. Quindi questo cosa significa? Significa che poi le velocità pratiche che si raggiungono sono molto inferiori. Difficile poi dire, perché il nostro territorio è anche piuttosto difficile e particolare rispetto ad altri territori dell'Europa, ad esempio, è difficile dire, fare una media delle velocità raggiunte, ma ti assicuro che se in una grande città come Milano i 14.4 oggi si raggiungono in pochi punti e in condizioni abbastanza rare. Sicuramente 7.2 è più acquisito. Se cominciamo a spostarci verso le catene montuose, le città di montagna, spesso è difficile anche trovare la rete 3G, quindi l'UMTS, e andare a 3.6. Quindi una media è difficile, ma teniamo conto che queste sono le velocità nominali dichiarate. Un'altra cosa importante sono le velocità di download dei dati. Se facciamo upload, l'esempio è inviamo ad esempio un messaggio di posta elettronica, queste non sono le velocità vanno ulteriormente diminuite, probabilmente dimezzate. Bene, Placer, perché queste chiavette non sono vendute sul libero mercato? Prevalentemente troviamo offerte collegate con gli operatori, mentre l'Italia si distingue forse nel mondo per un mercato della telefonia mobile, dove noi normalmente compriamo un telefonino, dopodiché ci facciamo un contratto con un operatore. In questo caso le cose non stanno così, o stanno cambiando? Grazie per la domanda, perché in realtà le cose stanno cambiando. Fino adesso è stato proprio così, cioè la chiavetta veniva sempre legata a un'offerta dell'operatore relativa al traffico. Ora, proprio anche in funzione di questa crescita continua di questo mercato, come dicevo prima, si arriverà a 5 milioni di chiavette nel 2010, e anche Onda Communication ha valutato l'opportunità invece di iniziare a proporre i propri prodotti anche su quello che viene chiamato il mercato libero. E proprio le posso fare un annuncio: nel prossimo maggio avremo sugli scaffali, tra virgolette, liberi, una chiavetta appunto in tecnologia 14,4 megabit di download e un'altra chiavetta in tecnologia 7.2 UPA, cioè vuol dire in upload anche 5,76 ma con integrato un ricevitore digitale terrestre per poter usufruire dei contenuti televisivi a questo punto in mobilità, quindi sul proprio PC. Questo anche in funzione del fatto che è imminente l'inizio dei mondiali in Sudafrica. Quindi uno che si sposta può collegarsi ad internet ma anche vedersi la televisione sul proprio computer. Esattamente, fruire di tutti i contenuti del digitale terrestre, unendo poi invece anche la possibilità di surfare su internet. Quanto costerà? Diciamo sia la chiavetta 14.4 che la chiavetta con ricevitore digitale terrestre verranno proposte a €99 e saranno disponibili a partire da maggio. Secondo lei, si metta nei panni di un consumatore, perché un consumatore, poi faccio questa domanda anche a Massimo Morandi, ma dovrebbe comprare un prodotto sul libero mercato, cioè quali sono i vantaggi rispetto alle proposte degli operatori? Innanzitutto per poter scegliere la chiavetta in maniera più libera e quindi in base per esempio all'aspetto fatto salvo la tecnologia, che quindi è il massimo in questo caso del 14.4, ma valutando magari l'aspetto estetico e funzionale e poi avendo il tempo di poter scegliere la tariffa migliore degli altri operatori o usufruire una tariffa che ha già e magari senza dover andare a acquisire un nuovo contratto con relativa chiavetta. L'altro, se invece se parliamo della chiavetta di VBT, perché ha la possibilità di avere una chiavetta che offre un'applicazione in più assolutamente libera e che quindi gli offre molte più possibilità. Chiarissimo. Massimo Morandi, consigli per gli acquisti per un consumatore? Aggiungo solo una cosa, l'importanza di poter comprare una chiavetta sul mercato libero in questo momento è data dal fatto che gli operatori vincolano ciascun modello di chiavette ad uno specifico piano che è differente dall'altro. Spesso capita di voler comprare un prodotto, ma questo prodotto è legato a un piano che non ci piace e allora siamo costretti a comprare un altro prodotto per comprare il piano. Che è quello che succede anche per i telefonini, quando il telefonino è legato ad un'offerta di un operatore. Esattamente. Detto questo, però, vorrei capire, Massimo, il tuo consiglio per l'acquisto di una chiavetta, cioè comprarla sul mercato libero o legandoci, magari approfittando però di un'offerta, di una promozione, di un operatore. E poi anche un'altra domanda relativa alla cosiddetta SIM locked, cioè queste chiavette vengono vendute dall'operatore e la SIM è bloccata rispetto a quell'operatore oppure no? Cioè posso cambiare la SIM oppure no? Ma guarda, in questo momento direi che il SIM lock sulle chiavette è stato abbastanza abbandonato, quindi una volta che si prende una ricaricabile, ad esempio una chiavetta da un operatore, magari la si prende con una ricaricabile, poi scaduta questa ricaricabile si può inserire una SIM di un altro operatore. In questo caso però il vantaggio, o meglio lo svantaggio, è che bisogna riconfigurare la chiavetta, che di solito esce con la configurazione dell'operatore con la quale si è acquistata. Quindi in questo momento si è abbastanza legati all'operatore, perché comunque tu scegli una chiavetta, basta aprire i siti dei gestori mobili e si vede che a ogni chiavetta corrisponde un piano, a cui corrisponde una cifra. Un'altra cosa, prima di acquistare bisogna avere molto chiare le proprie esigenze, perché se ad esempio molti acquistano una chiavetta solo per guardare la posta elettronica, in questo caso ci sono degli splendidi piani, tipo quelli per BlackBerry o per iPhone, solo legati alla mail, che poi si consulta direttamente dal cellulare e costa sicuramente meno, perché con 3-5 euro al mese si risolvono tutti i problemi. Le chiavette servono invece soprattutto per navigare in internet, per fare dati. In questo senso ci sono poi tante configurazioni di abbonamenti. Innanzitutto dopo ci sono... di questo parliamo dei prezzi, che è la domanda principale, ma quanto costa tutto ciò? Sì. Placer mi conferma che i prodotti venduti in Italia non sono... non hanno la SIM bloccata, cioè non sono legati ad un singolo operatore. Se io compro la chiavetta di un operatore poi la posso usare anche con un altro. Assolutamente sì, in particolare per i nostri prodotti questo è vero al 100%. Questa procedura del SIM lock è una cosa che va più in paesi esteri, tipo quelli anglosassoni usano questa metodologia. Voi vendete anche all'estero? Sì, noi vendiamo anche all'estero, noi abbiamo iniziato nel 2009 un nuovo processo di internazionalizzazione, partendo in particolare dal Sud America. Abbiamo fondato Onda Communication do Brasil a San Paolo e lì appunto per noi quello sarà il nostro hub per tutto il Latino America. Per quest'anno pensiamo di sbarcare sia in Nord America che in vari paesi dell'Europa. Ultima parte di 2024, tra poco la domanda a Massimo Morandi, ma tutto ciò quanto costa? Prima vorrei fare altre due domande a Mauro Placer di Onda Communication. Abbiamo detto che avete cominciato a esportare anche all'estero, un'azienda italiana che approfitta insomma di questo mercato interno e va ed esporta anche all'estero. Ma questi prodotti dove vengono fatti? Beh, allora, diciamo per quanto riguarda la capacità produttiva, nel vero senso della parola, come ahimè succede ormai da qualche anno e per tutti i produttori italiani e non, viene chiaramente fatta in Cina per motivi di costi. Ma tutta la parte di progettazione, concepimento del prodotto, affidabilità sul mercato, qualità, è tutta un prodotto al 100% italiano. Un ascoltatore ci suggerisce una domanda che è una ottima domanda. Ultimamente abbiamo visto alcuni, ma ancora pochi, netbook che integrano la connettività 3G. Questa cosa vi preoccupa e soprattutto da un addetto ai lavori che vede l'evoluzione del mercato tutti i giorni, perché ancora pochi sono i computer portatili che integrano questa tecnologia? Io una risposta ce l'avrei, però è lei che è l'esperto. Allora, innanzitutto non ci preoccupa, nel senso che abbiamo anche noi tra i nostri prodotti le schede che vengono chiamate mini PCI Express con tutte le tecnologie di comunicazione. Riteniamo comunque che, essendo la tecnologia dell'accesso a internet in mobilità una tecnologia che è ancora molto fluida e in ulteriore evoluzione, sia molto difficile trovare delle soluzioni embedded, come si dice, quindi che stanno all'interno dei dispositivi integrate, integrate, che abbiano una durata utile rispetto a quella che è l'evoluzione tecnologica. Quindi noi siamo convinti che sicuramente il mercato dei prodotti integrati crescerà, ma di pari passo aumenterà, continuerà a crescere anche l'accesso attraverso le chiavette, perché comunque c'è un parco PC assolutamente diffuso, e comunque proprio perché la tecnologia, come dicevo prima, evolve in maniera continua, è necessario avere piuttosto un prodotto esterno che è facilmente aggiornabile. Sì, quindi diventa obsoleta molto più rapidamente che il computer, che le tecnologie che fanno il computer, diciamo così. Massimo, allora, tutto ciò quanto costa? Facciamo anche alcuni esempi, perché abbiamo detto che sono economiche, ma fino a che punto? Punto interrogativo. Ma dunque, come tariffe, innanzitutto anche qui dipende dalle esigenze di chi sceglie. Si può scegliere un abbonamento o una ricaricabile. La ricaricabile è la cosa più semplice, perché nel momento in cui non c'è più credito non si naviga più. E qui si evita anche il problema dell'oltresoglia, che cioè quel monte traffico che quando si esaurisce il monte traffico si continua con un abbonamento, ad esempio, a navigare, ma si paga molto molto di più, quindi bisogna stare attentissimi. Poi ci sono due tipologie di abbonamento: a tempo o a volume. A tempo è la tariffa più immediata e intuitiva: quando si naviga basta tenere davanti al computer un orologio, si sa esattamente quanto tempo si è comprato e quanto si può navigare. Questo è fatto forse per chi naviga poco e per chi naviga saltuariamente. Infine c'è il volume, e il volume invece è forse la formula più vecchia, ma forse anche quella più efficace per chi naviga tanto. Si compra un determinato volume di dati e da lì si può iniziare a navigare. Quindi tanti gigabyte. Tanti gigabyte o qualche megabyte, dipende anche qui da cosa si vuole scegliere. Qualche esempio, direi tra l'altro H3G, ad esempio, tanto per fare dei nomi, ha delle offerte sia a volume sia a tempo. Ad esempio Vodafone e TIM in questo momento si sono concentrate più sull'offerta a tempo. Per fare qualche esempio, con 9-10 euro a tempo si può navigare una trentina di ore. Al mese. Se si vogliono più ore, tipo 300 ore al mese, si spendono dai 19-20 euro. Se parliamo invece di monte dati, con una ventina di ore di euro al mese, e qui dipende dall'operatore, si possono avere dai 2,5 ai 5 giga al mese. e quindi insomma ogni operatore poi ha ovviamente l'offerta migliore a seconda di quello che si vuole scegliere. Ce n'è una ad esempio di Wind che è interessante, 50 centesimi all'ora. E questa è fatta probabilmente è poco, per sì, non è tanto, ma è interessante. Beh, effettivamente diciamo che non siamo ancora arrivati a la completa flat, cioè è paragonabile alla DSL, io pago un tot al mese e posso navigare quanto voglio, 24 ore al giorno, eccetera, eccetera. Però diciamo che per un utilizzo anche piuttosto pesante tutti i giorni, insomma, ci sono delle tariffe che sono, mi sembra, buone. Ti assicuro che comunque fare 5 giga in un mese bisogna navigare tanto, ma tanto in mobilità. Quindi sì, sono buone tariffe. Placer, lei naturalmente sulle tariffe voi non intervenite, quindi siete degli osservatori. Pensate che ci possano essere dei margini per vedere prezzi in discesa e quindi per allargare poi anche questo mercato, oppure siamo arrivati più o meno ad un livello che vedremo ancora per i prossimi mesi? Perché mi sembra che negli ultimi mesi ci siamo un po' assestati su questi prezzi. Ma personalmente penso che qualche margine di miglioramento ci sarà ancora, però penso che pensare di arrivare a tariffe paragonabili a quelle del fisso saremo sempre un po' lontani, perché diciamo che l'architettura di rete per una rete mobile è completamente diversa di un'architettura di rete fissa. Ci sono delle economie da preservare che sono parecchio diverse, quindi anche una tariffa veramente flat sul mobile penso che aspetteremo parecchio prima di vederla. Placer, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro buon lavoro, in bocca al lupo per insomma, i vostri nuovi mercati, a presto. La ringrazio. Massimo. C'è da dire anche una cosa, che le chiavette hanno impegnato tantissimo la rete dati in questo periodo, quindi pensare che gli operatori possano abbassare ancora dei prezzi dando una flat o una semi-flat oggi secondo me è molto difficile, perché rischierebbero veramente il collasso delle reti. Un'ultima indicazione la diamo ai vostri lettori, oppure ai nostri ascoltatori che potranno diventare vostri lettori, perché voi avete anche una pubblicazione che si chiama Netbooks, con la S o senza la S? Senza la S. Netbook, che si occupa proprio di questo. Sì, si occuperà di questo il prossimo mese, o meglio tra una settimana, e cercheremo anche di dare tutti i suggerimenti, perché poi stiamo cercando di entrare nelle pieghe di tutte le offerte per i nostri lettori, affinché ognuno trovi il piano giusto e non si incorre in qualche errore che poi vorrebbe dire trovarsi una bolletta salatissima a fine mese. Ci sono anche i tranelli che avremmo voluto raccontarvi, ma la nostra ora è terminata per questa settimana. Grazie a Massimo Morandi, direttore di Cellulare Magazine. A presto, buon lavoro Massimo. A presto, ciao. Io ringrazio Paolo Corleoni per la regia, anche per il podcast che sarà disponibile a breve sul nostro sito internet. Io sono Enrico Pagliarini, vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione, grazie anche ad Anita Riotti in redazione. Vi ricordo, oltre che appunto la possibilità di scaricare la nostra puntata attraverso il servizio podcast entrando su www.radio24.it e cliccando sulla parola podcast sul nostro sito internet, vi ricordo anche il nostro indirizzo di posta elettronica, potete scriverci per qualsiasi motivo, per farci domande, non è detto che sempre siamo in grado di rispondere, o comunque per suggerire temi per le prossime puntate, alcuni ascoltatori lo fanno. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. È tutto per questa puntata, noi torniamo la prossima settimana, sempre il sabato nel pomeriggio di Radio 24 tra le 16 e le 17. Buon ascolto con i nostri programmi. You are disconnected.